Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24, rubrica di rassegna stampa per quanto riguarda i settimanali, periodici, quindi mensili, anche italiani e pure stranieri. Ritorniamo su un argomento che ci è già capitato di affrontare qui a Magazine 24, e cioè le quote rosa. Allora, come sapete, le quote rosa sono queste quote che dovrebbero essere riservate alle donne in tutti gli ambiti, quindi nella politica piuttosto che nei consigli di amministrazione, sul lavoro in genere. Qualche Stato sceglie di imporre per legge una percentuale di donne nei consigli di amministrazione, ad esempio, qualche altro Stato no, qualcuno sta decidendo e noi siamo tra questi ultimi. Se avete visto ieri sul Sole 24 Ore in prima pagina, la collega Monica D'Ascenzo ha appunto spiegato che è stato esaminato attentamente dal Ministero dell'Economia questo testo, questa proposta di legge, in cui, in modo, come si dice, bipartisan, cioè con una proposta sia dalla maggioranza che dall'opposizione, si vuole arrivare a prevedere un minimo di donne nei consigli di amministrazione delle società. Si parla del 30%. Va detto, lo ricordava appunto anche la collega D'Ascenzo ieri sul Sole 24 Ore, va detto che noi italiani siamo attualmente tra il 6 e il 7% della presenza femminile nei consigli di amministrazione, quindi siamo molto molto molto lontani da questo 30%. Però c'è dibattito sul punto, perché alcuni dicono è una buona idea, altri dicono no, è un po' come voler ghettizzare, quasi come voler trattare come degli animali in via d'estinzione la presenza femminile. Della questione, proprio in questi termini, si occupa Famiglia Cristiana questa settimana. Quote rosa in azienda è il tema della rubrica Il Fatto e le Opinioni, che viene curata come sempre da Antonio Sanfrancesco, e mette a confronto due pareri diversi, che poi in realtà, quando si va a vedere, tanto diversi non sono. Sono due pareri ovviamente femminili. L'uno è di Barbara Saltamartini, che è responsabile nazionale delle pari opportunità per il PDL, e l'altro è di Simona Cuomo, che è coordinatrice dell'Osservatorio sul Diversity Management dell'Università Bocconi. Allora, vediamo la parte, le argomentazioni della Saltamartini, che dice l'Italia è molto lontana da una presenza reale delle donne nei consigli di amministrazione. Lei segnala questo dato del 6,2%. A livello europeo siamo al 29esimo posto su 33 paesi censiti. Dietro di noi ci sono Malta, Cipro, Lussemburgo e Portogallo. Insomma, non ne usciamo benissimo. L'ideale, però, consiglia la Saltamartini, è che questa legge sia a tempo, come è successo per le quote rosa nelle candidature alle elezioni europee. Così si può gestire nel modo migliore la transizione verso una effettiva parità. Di parere leggermente diverso, ma poi non così opposto, quel invece è Simona Cuomo, perché dice: il sistema delle quote è un grimaldello che va usato, perché la nostra cultura è lenta nei cambiamenti ed è piena di stereotipi riguardo alle donne. Questa è la prima frase con cui Simona Cuomo descrive lo stato delle cose. Detto ciò, la proposta di legge in discussione mi sembra velleitaria, perché non si può pensare che dall'oggi al domani in tutti i consigli di amministrazione si liberi il 30% dei posti per fare spazio alle donne. Quindi, in questo modo Simona Cuomo prende abbastanza le distanze da questa proposta di legge, anche se poi nella conclusione proprio del suo argomentare viene su posizioni abbastanza simili a quelle della Saltamartini, perché dice: le quote vanno bene solo se sono temporanee. L'obiettivo è quello di mettere in crisi l'attuale modello di governance, di gestione, allargando il più possibile la partecipazione femminile. Quindi non bisogna in qualche modo focalizzarsi su una percentuale, che potrebbe poi essere pure controproducente, ma invece utilizzare questo tipo di sollecitazione normativa per far migliorare un po' lo stato dei fatti. stato dei fatti che non è lusinghiero, perché non c'è solo il problema della poca presenza delle signore nei consigli d'amministrazione. In realtà abbiamo un triste posizionamento anche per quanto riguarda le pari opportunità in modo complessivo. A ricordarlo è Anselma Dell'Olio su Grazia di questa settimana, che dice: abbiamo stabilito un primato nelle pari opportunità, quello del silenzio. A cosa fa riferimento? Fa riferimento a questa notizia. È uscito il rapporto, ricorda lei nella sua rubrica che è intitolata A essere sincera, è uscito il rapporto, dice, del World Economic Forum sul Global Gender Gap, cioè sulla distanza globale a livello di genere. Un rapporto che misura il divario di opportunità tra uomini e donne in 134 paesi. La Francia è scesa di diversi punti, è al 46esimo posto, e infatti l'articolo prende le mosse proprio da una lamentela di una signora francese. Dice: la Francia è scesa di diversi punti, è molto dopo gli Stati Uniti, che sono ora saliti al 19esimo posto, sempre su 134, ve lo ricordo, gran parte d'Europa, persino dopo il Kazakistan e la Giamaica. Quindi la Francia è scivolata molto indietro. Ma l'Italia è ancora più indietro, dice: noi arranchiamo al 74esimo posto, 2 punti sotto l'anno scorso, quindi abbiamo pure peggiorato. Una corsa a leggere i commenti dei quotidiani italiani sulla nostra codificata arretratezza ha rivelato un bel nulla. Sarebbe bello pensare che i giornali abbiano ignorato questo rapporto per vergogna, perché sono i primi a peccare nella negazione delle pari opportunità, visto che, ricorda Dell'Olio, i direttori donna di quotidiani e periodici generalisti da noi sono rari come denti di gallina. È abbastanza caustica nel suo dire, ma non possiamo poi smentirla con i dati sicuramente. Dice: il problema è che anche che la crisi non ha poi migliorato le cose, perché spiega che le donne vengono penalizzate sul piano retributivo dei livelli occupazionali e soprattutto poi nella conquista di posizioni di comando, e la maternità è poi un fattore che frena, alimentando le discriminazioni. Ricorda infine anche le zone d'ombra che, come dire, provvedono a posizionarci così male in questa classifica di genere. Ci sono le differenze salariali, che ci relegano al 121esimo posto su 134, la partecipazione alla forza lavoro 87esimi. E poi la più bruciante di tutte, dice: siamo regredite dall'88esimo al 95esimo posto per salute e aspettativa di vita, a causa dell'aumento della disuguaglianza a danno delle donne. Questo ricorda Anselma Dell'Olio su Grazia questa settimana. Però è anche vero che ci sono poi degli esempi, come dire, inattesi. Uno lo ha trovato Vanity Fair. Come sapete, la lieta conclusione della vicenda dei minatori di Copiapò in Cile e il salvataggio di tutti e 33 ha avuto molta eco sui giornali. Ha naturalmente molta eco anche sui settimanali che abbiamo potuto vedere. Ha trovato un taglio molto particolare di Vanity Fair, che in un articolo di questa settimana è andata a pescare due signore che fanno i minatori. Non so se si può dire minatrici, non vorrei utilizzare un neologismo pericoloso. L'articolo è di Riccardo Venturi, si intitola Io non ho paura, racconta la storia di queste due signore, di queste due donne che hanno proprio due incarichi per cui vanno materialmente nelle gallerie e vanno in miniera. L'ultima miniera di carbone della Sardegna, in proposito. Vi rimando poi all'articolo, che è anche molto dettagliato, racconta molto bene le vicende e così anche un po' il disagio, le difficoltà che queste due donne incontrano in un ambiente che è non prevalentemente maschile, ma quasi esclusivamente maschile. L'una in particolare si occupa di sicurezza e di controlli ambientali, quindi il suo compito nel sottosuolo è controllare la ventilazione nelle gallerie, verificare l'eventuale presenza di gas, di polveri che possono essere inalabili o infiammabili. Per fare questo lavoro deve stare proprio dietro alla macchina che scava il carbone, quindi poi quando esce è tutta nera. Però dice: non usa nessuna protezione particolare, tanto se metti la maschera, spiega, ti viene l'affanno che poi può provocare l'asma. L'altra si chiama Valentina, la prima si chiama Patrizia, l'altra è un tecnico di bullonamento. Il bullonamento è il metodo più moderno e sicuro, leggo sempre da Vanity Fair, per sostenere le gallerie e consiste nell'inserimento di barre di acciaio perpendicolari alla parete. Quando arriva nel sottosuolo, Valentina fa la lettura di un certo strumento che si chiama estensimetro e sono dei dispositivi che servono proprio a monitorare la stabilità delle gallerie, quindi un lavoro molto delicato e di grande responsabilità anche nei confronti dei colleghi. Si sposta con la scala per raggiungere i vari estensimetri, appunto, e poi segue la perforazione e l'inserimento dei bulloni. Le loro storie, il loro, appunto, anche le loro difficoltà nel vivere in questo ambiente quasi tutto maschile sono raccontate, come vi dicevo, da Vanity Fair questa settimana. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, stavamo parlando di miniere. Allora, a proposito di miniere, su Newsweek una segnalazione breve, ma verrebbe da dire intensa, proprio sulla vicenda delle miniere, che prende le mosse naturalmente dall'epilogo della vicenda cilena. Il titolo è già tutto un programma, dice: quale sarà la nazione che vedrà il prossimo disastro minerario? Perché questo titolo così aggressivo da parte di questa breve corrispondenza di Jimmy Langman riportata su Newsweek? Perché la situazione, appunto, della sicurezza in generale nelle miniere e in particolare in alcuni paesi è tutt'altro che buona, e quello che abbiamo visto in Cile, il lieto fine che abbiamo visto in tutto il mondo per i minatori cileni, ohimè, è un'eccezione, come spiega appunto Langman. Dice l'ultimo minatore che è stato tirato fuori appunto nella miniera cilena ha detto: sono sicuro che adesso le cose nella sicurezza delle miniere cilene cambierà, o almeno me lo auguro, insomma, queste sono state più o meno le sue parole, però non ci sono molte garanzie per pensare che la sicurezza sia in aumento, perché ad esempio, ricorda Langman, in Cina si calcola che l'anno scorso siano morti appunto nelle miniere 2631 minatori, e poi ci sono alcuni stati che una volta facevano parte del cosiddetto blocco sovietico, il Kazakistan, l'Ucraina, ma la stessa Russia, così come anche la Colombia e la Turchia, che hanno dei dati molto pesanti. Secondo la Federazione Internazionale dei Sindacati dei Minatori ci sono più o meno 12.000 lavoratori di questo settore che muoiono purtroppo ogni anno. Le miniere sono sempre state, ricorda Langman, un'attività rischiosa, però gli esperti temono che leggi troppo permissive e soprattutto applicazioni molto permissive contribuiscano pesantemente a far peggiorare questo stato di cose. E tutto questo appunto su Newsweek, che ci ricorda come appunto per un lieto fine che abbiamo potuto vedere, in realtà ci siano molte altre vicende non a lieto fine che coinvolgono lo stesso settore. Ultima segnalazione per la vicenda di Copiapò dei minatori cileni da Famiglia Cristiana, perché Famiglia Cristiana, con un contributo di Eleonora Della Ratta, ha trovato questo ingegnere che ha contribuito in modo decisivo al salvataggio dei 33. È un italiano, si chiama Stefano Massei, un ingegnere pisano, e se leggete Sole 24 Ore forse ricorderete che qualche settimana fa avevamo già ospitato una segnalazione di questo signore, la segnalazione della storia molto curiosa di questo signore, proprio sul Sole 24 Ore in prima pagina. Vediamo il ritratto che viene ora proposto su Famiglia Cristiana. Famiglia Cristiana spiega che Stefano Massei, 56 anni, pisano, è l'ingegnere meccanico che ha guidato la squadra dei soccorritori. È un ingegnere, lavora per Enel Green Power ed è impegnato dal 2008 a cercare pozzi geotermici. Lui stava al momento in cui è successo l'incidente ad Apacita, che sta a 1500 km da Santiago. Lo hanno chiamato per riuscire ad assemblare nel modo più efficace possibile appunto gli strumenti di perforazione che dovevano consentire di scavare la galleria, e appunto Massei è stato un protagonista determinante per il salvataggio dei minatori. Questo lo ricorda e lo racconta Eleonora Della Ratta su Famiglia Cristiana di questa settimana. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di televisione, ma di una novità televisiva che è di questa stagione, di cui si occupa su L'Espresso nella sua rubrica Stefano Bartezzaghi. Il titolo già vi farà capire a cosa ci riferiamo: che noia lo spogliatoio. Di cosa si tratta? Voi sapete che da questa stagione calcistica le telecamere hanno infranto, per così dire, un tabù, sono entrate direttamente negli spogliatoi delle squadre di calcio. Ora, quello che segnala, devo dire correttamente, Stefano Bartezzaghi è che in queste inquadrature dagli spogliatoi non succede assolutamente niente. Cioè, si vedono dei ragazzi che si allacciano le scarpe oppure fanno dello stretching, insomma, delle cose assolutamente normali come si potrebbero vedere in qualsiasi spogliatoio di qualsiasi sport. Allora, vediamo qualche passaggio di questa breve rubrica sull'Espresso di questa settimana. Dice: in TV il dietro le quinte, il backstage, cioè il raccontare appunto come si fa uno spettacolo, non mancano certo, ma sinora, scrive Bartezzaghi, avevano resistito gli spogliatoi dei calciatori. Ma con tutti i soldi che la TV dà al calcio, il tabù è stato abbattuto, prepartita, Sky Sport, prima di ogni gara di campionato. Ma c'era davvero qualcuno che si aspettava qualcosa di interessante? Perché la telecamera scivola in leggera e prudente differita su immagini di ragazzotti dalle facce in modalità salvaschermo. Si stravaccano affranti su poltroncine come loro coetanei a un triste happy hour, oppure sciabattano con aria assorta come se fossero in attesa di una sentenza anziché della pugna. Dice: forse tra qualche anno i calciatori non faranno più caso alla telecamera, o al contrario si inventeranno scene da Grande Fratello, disinteressandosi della concentrazione della partita e di queste minuzie. Ma intanto non succede rigorosamente e programmaticamente nulla. Lo spettatore può solo ammirare arredi, suppellettili, impianti idraulici e chiedersi se con il rinnovo dei contratti sui diritti TV dell'anno prossimo arriveremo perlomeno agli orinatoi. Bartezzaghi, un po' caustico, cita il Grande Fratello. Il Grande Fratello, come sapete, è partito proprio questa settimana. I settimanali naturalmente ne sono pieni, ne danno ampio risalto, più i femminili, ma anche i generalisti non fanno eccezione. Noi vi rimandiamo, tra le molte proposte che potrete trovare in edicola, a Sorrisi e Canzoni TV. Sorrisi e Canzoni TV presenta appunto i 20 ragazzi della nuova edizione del Grande Fratello, con delle brevi note biografiche dedicate proprio a ciascuno di loro. Apprendiamo tra l'altro che il meno giovane, perché davvero non si può dire che sia anziano, è Alessandro Marino, ha 37 anni ed è salernitano. Tra i più giovani invece diversi ventenni, diciamo intorno ai 22 anni forse Angelica Livraghi è la più giovane in assoluto del lotto, e poi naturalmente tutte le indicazioni per gli appassionati di questa trasmissione televisiva, che è arrivata, come sapete, all'undicesima edizione. E con questa segnalazione, questo consiglio per seguire la televisione, ma vi raccomandiamo, vi preghiamo, seguite anche la radio, forse succedono più cose da questi microfoni che non, come abbiamo detto, da alcune telecamere. Finisce qui allora la nostra puntata del sabato di Magazine 24. Come sapete, Magazine 24 torna anche domenica, quindi ci possiamo sentire anche domani. Io ringrazio Anita Panizza, che mi ha aiutato a preparare questo programma. Ringrazio Paolo Corleone, questa mattina in regia con me. Vi ricordo che se volete riascoltare questo programma, volete informazioni sui programmi di Radio 24, potete consultare il nostro sito www.radio24.it. A domani.